Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fa le scale, prova a correre e il pannolino solamente la notte. Ora Giovanni è rinato. È un bambino nuovo. Eppure i suoi occhi sono sempre gli stessi. E la sua gioia è rimasta quella che ci trasmetteva quando era sotto ossigeno in ospedale. Sono Donatella, vivo a Oderzo, un paese in provincia di Treviso, e sono insegnante. Ci sono delle storie che raccontiamo una volta ogni tanto, ci sono delle storie in assoluto, che possono essere lette in maniera molto privata, molto personale, molto intima, ma anche in maniera invece molto, molto pubblica, quasi... che ha quasi a che fare con la massa, con tutte le persone che ci stanno intorno. Ed è il caso della puntata di oggi. La storia di Donatella parla di una cosa che è molto intima e spesso si ha quasi timore a raccontarla, ed è la paura verso il futuro dei propri figli. Nel suo caso ne ha tre ed è uno in particolare, ed è Giovanni. Adesso lei ci spiegherà meglio il perché. Però la paura per i propri figli è un concetto quasi generazionale. Che cosa sarà dei ragazzi che oggi hanno 10, 12, 15 o 16 anni. Comunque la vogliate leggere, la puntata di oggi parla di figli, ma soprattutto parla di genitori e delle paure che hanno nei confronti dei loro figli. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, sono le 16 e 9 minuti, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi qui c'è Donatella, appunto, che parla di questo aspetto. Questo è un aspetto che i figli non vedono quasi mai. I figli vedono di solito rabbia, vedono nervosismo, vedono rassegnazione, però è difficile che i figli riescano a riconoscere negli occhi dei genitori, negli atteggiamenti dei genitori, una forma di paura verso di loro, verso il futuro che li aspetta. 349-238-6666, sul profilo Facebook del programma alcuni genitori ovviamente hanno raccontato il modo in cui loro esorcizzano le paure nei confronti del futuro dei loro figli. Laura, anch'io ne ho tre di figli come Donatella, e la paura per il loro futuro mi assale spesso. Cosa faccio? Penso a mia madre e a mio padre, che hanno cresciuto tre figlie negli anni 70 e 80, gli anni del terrorismo e della crisi energetica. È vero, Laura, che negli anni 70-80 si stava forse un po' meglio di oggi, però lo hanno fatto con uno stipendio da sottufficiale dell'esercito, uno solo, senza risparmi e vivendo in un appartamento in affitto. Noi lavoriamo entrambi, abbiamo una casa di proprietà e stiamo cercando di risparmiare qualcosa per permettere ai nostri figli di studiare, magari all'estero. Ecco, questo è un altro tema che torna, ed è Giulia, ad esempio. Cerco di non pensare troppo al futuro dei miei figli, cerco di pensare ad altro, oppure penso ad un futuro fuori dall'Italia. 349-238-6666. Valentina è un'altra. Le guardo negli occhi, sorrido e dico: scappa finché sei in tempo. 349-238-6666. Non sono tanto i consigli però che date ai vostri figli, che vi chiediamo di raccontare oggi, ma è se avete voglia di raccontare proprio quella paura che avete pensandoli a quando saranno più grandi, pensando a cosa li aspetta da qui a quando saranno più grandi, è il modo in cui lo esorcizzate. 349-238-6666. Questa è la storia di Donatella, soprattutto questa è la storia di Giovanni. Tutto è cominciato 7 anni fa. Gravidanza un po' faticosa. Un maschio, il mio secondo bambino. Ci dissero che si trattava di una sindrome non ben definita e lui, ben contento di sorprenderci ancora, nacque di 7 mesi, il 2 dicembre. Domenica festeggeremo il suo compleanno, il compleanno di Giovanni. Fin dall'inizio noi non volevamo capire. Non volevamo accettare il fatto che il piccolo avesse dei problemi. Tutti ci dicevano che si sarebbe ripreso. 3 anni di spola tra casa e ospedale, 12 ricoveri in 2 anni, controlli, indagini di tutti i tipi, visite genetiche con relative diagnosi di sindromi sconosciute. E il piccolo cresce. A 3 anni e mezzo i primi passi, 2 occhioni azzurri, un sorriso che incanta e delle ciglia lunghissime che tutti hanno sempre pensato fossero truccate con il rimmel. È bellissimo Giovanni. Quest'anno frequenta la prima elementare, mi piace tantissimo andare a scuola, ha fatto subito amicizia con i suoi compagni, ha una buona classe, si diverte, va a scuola volentieri, insomma, ecco. Poi oltre alla scuola, vabbè, fa le sue terapie al centro di riabilitazione dove lo portiamo. Poi lo portiamo in piscina una volta a settimana, anche questo gli piace tantissimo perché in acqua si sente più a suo agio, ecco. E poi un bel giorno ci dicono che il nostro piccolo cammina appena, non parla ed è più piccolo degli altri bimbi per una delezione del cromosoma 9. Fortunatamente un genetista che aveva visitato Giovanni a Padova in quel periodo stava seguendo una ricerca proprio su quel minuscolo pezzettino di cromosoma andato perduto. E cominciano le cure. Si passa dai tutori ai plantari. E ora riesce ad andare in bicicletta, fa le scale, prova a correre e il pannolino solo la notte. Ora Giovanni è rinato. È un bambino nuovo. Eppure i suoi occhi sono sempre gli stessi. E la sua gioia è rimasta quella che ci trasmetteva quando era sotto ossigeno in ospedale. E io? E io non sono più la ragazza spensierata di una volta. L'ho partorito quando avevo 27 anni. Tanta paura quel giorno, non volevo che nascesse. Volevo tenerlo al sicuro ancora qualche settimana. Eppure è nato. Tutti quelli che incontrano mio figlio mi ringraziano, perché Giovanni dà loro serenità, gioia. È un tesoro, un dono. Rasserena e dà forza. Lui, che ancora oggi ha sempre bisogno di qualcuno per fare qualsiasi cosa, dall'andare in bagno al vestirsi, a mangiare, preparare lo zaino, salire in macchina. È lui che sorregge, è lui che saluta per strada gli sconosciuti e strappa loro un sorriso, sempre. È lui che chiede a tutti le chiavi della macchina per poterla chiudere e aprire. È lui che adora nuotare, è lui che abbraccia e bacia il medico che gli ha appena fatto un prelievo del sangue. Eppure, nonostante tutti questi tesori che racchiude mio figlio, io sto male. Sto male perché ho paura che possa essere trattato male quando sarà più grande, preso in giro per il suo ritardo. Sto male per le continue lotte burocratiche per avere un'ora in più di insegnante di sostegno a scuola, perché non so se imparerà mai a leggere o a scrivere. Essendo come carattere così orgogliosa e sempre stata abituata, ecco, fin da piccola ad arrangiarsi e riuscire bene in tutte le cose, ecco, allora è difficile per me dire a qualcuno che sono debole in un certo senso. E a mio marito sicuramente ne parliamo, però cerca di rassicurarmi, logicamente cerca di come dire, farmi capire che non è tutto difficile. Poi 2 anni fa è nato Damiano, una gioia grande, un fratello con cui giocare quasi alla pari, con cui fare la lotta e ridere a crepapelle. Tante contraddizioni si agitano dentro. Io non penso di essere una buona madre, penso di fare del mio meglio, ma non è facile crescere 3 figli di cui uno disabile. Vorrei essere sempre positiva, sempre forte. A volte però ho proprio bisogno di sentirmi ascoltata, coccolata. Vorrei un abbraccio da qualcuno che mi dicesse: stai tranquilla, andrà tutto bene. Ed è per questo che ho scritto la mia storia. Anzi, per la precisione, la storia di Giovanni. 2 occhioni azzurri che sorridono e abbracciano la vita. My baby's scared of the dark. She says the night is full of monsters. But when I press my body against hers, I kiss her goodnight and I count to 4. My baby's not scared of the dark anymore. Io vorrei davvero tanto riuscire a dire a Donatella: stai tranquilla, andrà tutto bene. Però credo di non essere la persona giusta. E non perché penso che non andrà tutto bene, ma solo perché io non sono nelle condizioni di farlo. Perché credo di essere anch'io una di quelle persone che, se incontrassi Giovanni per strada, se incontrassi lui e la sua irrefrenabile gioia di vivere, io avrei probabilmente la stupida sfrontatezza di ringraziarla, perché suo figlio mi dà gioia, mi dà forza, perché è un dono. Sì, credo proprio che farei quella fine lì. Perché quel modo di guardare la vita di chi ha problemi maggiori dei nostri, anche se non è malizioso, è un modo romantico, è un modo facile. È il modo di chi cerca di incoraggiare le persone meno fortunate di lui, ma in realtà incoraggia più che altro se stesso, per paura che il senso di colpa non lo moli mai più. E allora dice cose tipo: che bel sorriso, oppure è pieno di vita, cose che si potrebbero sentire ad uno di quei programmi televisivi del pomeriggio. Ricordo che una volta ero in un supermercato con mia mamma. Andavo sempre, o io e mia sorella l'accompagnavamo sempre. E davanti a noi, in coda alla cassa, c'era una giovane donna con un bambino di nemmeno un anno. Lo teneva in braccio. Sorrideva in continuazione quel bambino e aveva gli occhi leggermente a mandorla che hanno le persone affette dalla sindrome di Down. Mia mamma ci giocò per qualche minuto e non so bene il motivo, però si commosse. La mamma del bambino non fu contenta. Quando se ne accorse fece in fretta ad imbustare la spesa e se ne andò. Mia mamma invece ci rimase molto male e io lì per lì non capii nemmeno io il motivo per cui se la fosse presa. E un po' il racconto di Donatella e di Giovanni mi sta aiutando a farlo. Credo che abbia a che fare con il concetto di pietismo e di compassione. Chi prova compassione è come se lasciasse completamente sola la persona verso cui indirizza quel sentimento. Come a dire: guarda, mi dispiace tanto, e niente più. E io sono sicuro che mia mamma fosse in buona fede quel giorno quando si commosse, così come sono sicuro che lo siano tutti quelli che apprezzano Giovanni e dicono quelle cose di lui a sua mamma. Però c'è una anormalità tradita in questo atteggiamento che mette le persone come Donatella in difficoltà. È come se non volessimo ammettere che la vita di una persona disabile sia diversa dalla nostra. Come se non avessimo il coraggio di farlo. No, è meglio dire che dà gioia e che dà speranza, invece che pensare che forse ci sarà qualcuno che lo prenderà in giro. Perché, chi lo sa, è probabile che succeda. Com'è probabile che sarà in difficoltà nel capire di non essere in grado di fare una cosa che altri fanno invece con facilità. E non ammetterlo vuol dire ritagliarsi un ruolo giudicante, quasi, assistenziale, anche se è fatto senza cattiveria, anche se l'intenzione è esattamente l'opposta. Io ho fatto il servizio civile invece di quello militare e sono felice di averlo fatto, perché per 10 mesi ho vissuto con persone che altrimenti non avrei mai frequentato. Alla cooperativa Primavera di Cuggiono ho conosciuto persone con disabilità di ogni tipo e stando con loro ho capito quantomeno che trattarli alla pari non vuol dire far finta di niente, ma al contrario avere sempre presente che loro sono diversi da me e io sono diverso da loro. Ho capito che loro potevano prendere in giro me e io potevo prendere in giro loro. Ho capito che la compassione non è il modo migliore per affrontare la disabilità, ma in fondo, poi, alla fine, non ci ho capito molto. La storia di Donatella però spiega bene una cosa, che è una regola aurea della vita, secondo me, che le cose fino a che non capitano a te sono impossibili da capire e che ha ragione lei quando ha paura per il futuro. Quindi io mi guarderò bene dal dirle stai tranquilla, andrà tutto bene, perché forse l'unica persona che può farlo è Giovanni. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Ha ragione Margherita Ina, che probabilmente dice che non dobbiamo fare certe puntate il venerdì, perché il venerdì siamo tutti più fragili, perché siamo stanchi e ci aspetta un po' di riposo, allora è complicato affrontare puntate di un certo tipo. 349-238-6666, ci sono un sacco di genitori che raccontano di avere paura per il futuro degli altri figli e altri invece no. Assolutamente non sono preoccupata, noi abbiamo 4 figli, facciamo quello che possiamo con tanto amore, Rita ad esempio. Anche Paolo, non ho nessuna paura. Ma solo l'obiettivo di dar loro la giusta chiave di lettura per un mondo e un futuro ricco di opportunità. 349-238-6666. E poi, visto che io non avevo il coraggio di dirglielo a Donatella, stai tranquilla, andrà tutto bene, ci ha pensato Domenico, che mi ha scritto: Giovanni è una madre meravigliosa, andrà tutto bene. Pronto Donatella? Sì, sono qua. Ciao, come stai? Ciao, bene te? Io bene. Dove ti trovi bene in questo momento? Adesso sono a casa davanti al computer e sto ascoltando la trasmissione. E sei da sola, i tuoi figli non ci sono in giro? Sì, c'è la Laura, la più grande, sta facendo i compiti in questo momento. Quanti anni ha la Laura? Laura ha 9 anni. Allora, Laura 9, Giovanni ne 9, ha... 9, Giovanni ne ha 7 e Damiano ne ha 2 e mezzo, ne fa 3 ad agosto. E Giovanni e Damiano dove sono quindi? Sono da mia mamma, perché Damiano comunque si è addormentato, fa il riposino ancora, e Giovanni è rimasto da mia mamma. Io adesso sto studiando un pochino nel frattempo. Perché tu mi ricordi cosa poi vai a prendere, immagino non li lasci là. Già prima ero quasi nel panico perché mi dicevi che non avresti potuto preparargli la merenda dovendo stare al telefono con noi, poi mi hai garantito che gliela prepara tua mamma. Sì, quindi sì, gliela prepara siamo mamma. Tranquilli. Mi ricordi che cosa fai, Donatella? Io sono insegnante di francese e di russo. Adesso insegno alle scuole superiori, poi faccio anche corsi, diciamo, di lingue, però principalmente. Ma il russo come l'ha imparato? O come si decide di diventare insegnante di russo? Allora, il russo l'ho scelto all'università perché mi piacevano tantissimo gli scrittori russi, allora Dostoevskij, Bulgakov, così mi piaceva tantissimo. L'avevo letto in italiano, allora veramente ero appassionata proprio della letteratura, per cui ho pensato che fosse poi una lingua particolare da conoscere, che non sanno tutti, allora l'ho scelta. E si trova più facilmente lavoro sapendo il russo, oppure siamo sempre precari e siamo sempre lì ad aspettare? Ma diciamo che all'inizio io ho trovato subito lavoro perché ho trovato lavoro in una ditta che cercava di ampliare il mercato russo, per cui okay. Il mio primo interprete praticamente. Poi, sì, traduttrice, interprete, okay. Commerciale, così. E poi invece con la famiglia, diciamo, mi sono dirottata verso l'insegnamento. Come sta Giovanni invece? Bene, bene, lui sta bene. Sì, sta adesso bene, lui un buon va a, scusa, che classe fa? Lui adesso è in prima elementare, fa la prima. Quindi sono quanti mesi che ci va? Beh, da settembre, quindi. Beh, da settembre, sì, ha finito il primo quadrimestre. E come si metà trova? Anno, ecco. Ma bene, sì, bene, la classe l'ha accolto bene, perché poi lui, appunto, essendo così sorridente, felice, lui non ha problemi nel socializzare, anzi, poi tutti lo accudiscono, soprattutto le bambine, allora lo accudiscono come se fosse la mascotte, alla fine diventa la mascotte, tutti poi anche i ragazzi, i bambini delle altre classi ormai lo conoscono, poi gira le classi, insomma è... Voi abitate in un paese, giusto, Donatella? Siete in un paese piccolo? Oderzo. Beh, non è piccolissimo Oderzo, però. No, però io ragiono, cioè rispetto ad altre città mi sembra ancora piccola, poi sì. Mi racconti invece una tua giornata tipo, cioè quando ti alzi cosa fai, quante cose fai in una giornata? Abbastanza, allora vabbè, mi alzo, preparo i bambini, li porto a scuola. E poi allora o vado o ho lezione a scuola o ai corsi, quindi la mattina passa così. E poi allora se sono a casa per pranzo ho i bambini a casa e anche il pomeriggio, invece se lavoro, sì, se finisco, diciamo, se ho l'ultima ora a scuola, i bambini sono dai miei perché mio marito lavora abbastanza fuori, per cui non è quasi mai a casa, diciamo. Perché abbiamo anche un marito in tutto questo, non sì, hai, esatto. Dicevi che quando è venuta la storia tuo marito ha detto ma come, non m'hai neanche citato, esatto, minimamente. Sì, infatti devo scusarmi pubblicamente, no, è importantissimo, però nella storia mi sono dedicata a me un pochino, perché lui ha una visione, cioè lui interpreta tutta la nostra esperienza in un modo molto diverso da me, allora lui racconterà la sua storia a suo modo. Va bene, allora facciamo così, non ti chiedo come la interpreta, aspetteremo la sua storia. Prima di salutarti, sì. Donatella, mi dici, tra tutte le paure che hai, la più grande qual è? Per Giovanni o per in generale? No, io non sono una tipa paurosa, io sono diventata, io sono diventata paurosa per l'esperienza, ecco, che ho avuto, però diciamo la paura più grande che ho è che lui non riesca, che Giovanni non riesca mai ad essere completamente autonomo e quindi che abbia sempre, che dipenda sempre da qualcun altro e mai libero, ecco, mai veramente libero, felice, sì, lui sarà felice, è felice già ora, però non completamente libero, ecco. Sì. Donatella, ti ringrazio molto per la storia e la chiacchiera, andrà tutto bene. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Voi siete qui. C'è tutta la famiglia, c'è anche il papà, c'è anche il marito nella foto che ci ha mandato Donatella e che trovate sempre sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Sono in un giardino ed è quantomeno primavera, direi, perché fa caldo e ci sono dei fiori. Forse estate, ma no, direi che la luce è più primaverile. Sono tutti molto stretti e credo che il marito di Donatella stia tenendo la macchina fotografica con il braccio, quindi è un autoscatto, però riuscito perfettamente. Donatella ha in braccio il bimbo più piccolo, che non ricordo come si chiama, Damiano. Di fianco a lei c'è la figlia più grande, di cui non ricordo il nome, e Giovanni ovviamente c'è in primo piano con dei begli occhiali con la montatura rossa. E tutto a sinistra c'è il marito di Donatella, che è una copia più giovane di Philip Stark. Futuro. Aggettivo e sostantivo maschile. Relativo al corso del tempo successivo al presente. In grammatica, tempo futuro, la forma verbale, finita o non finita, che definisce l'azione del verbo in uno spazio temporale successivo a quello attuale. Quanto nell'ambito della verisimiglianza e della possibilità dovrà accadere. Etimo dal latino futurus, participio futuro di esse, essere. Data fine secolo XIII. 349-238-6666. Le paure dei genitori sono qualcosa che non si racconta con grande facilità, o perlomeno da figli non è facile intuirle, perché giustamente i genitori se le tengono nascoste, se le tengono per sé. Fa un po' parte del pacchetto genitore, no? Che insieme alle gioie che parlo senza sapere delle cose, nulla, perché non sono genitore, però mi sembra di vedere negli amici in generale, chi conosco che è genitore, c'è una grande parte di gioia e una grande parte di paura. È una sorta di all inclusive. Mi scrive Alberto da Vicenza: gemelli, parto a 27+5, che non so cosa voglio dire, non so se è un errore del T9, tant'è. Bimbo con problemi cerebrali, bimba con acondroplasia, tanti problemi, ma non saprei vivere senza loro e ho una paura infinita per il loro futuro. Ciao Alberto, mio figlio 9 anni, mi scrive invece Gianni da Milano, è troppo buono, temo che venga sbranato dal gruppo e io ero uno sbranatore, sarà la legge del contrappasso? Si domanda Gianni. Questa è un'altra paura dei genitori nei confronti dei figli troppo buoni. Questa roba è una cosa che secondo me è culturale, cioè è proprio una questione culturale, che quando ci sono due figli e uno è più sveglio e l'altro è o più cattivello, l'altro è più buono, quello più cattivello subito è sai, è lui, come dire, per lui non c'è problema, lui se la caverà, l'altro invece l'altro è buono e invece soccomberà. Non so, forse non è sempre così, forse è un po', ripeto, è una questione culturale. 349-238-6666. Tra l'altro c'era un altro messaggio di una donna, di una ragazza incinta, che diceva che prima ancora che nasca io ho paura. C'è un passaggio magnifico dell'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi, in cui nel momento in cui una delle donne che vive in questa cascina nel Bergamasco, giusto, l'Albero degli Zoccoli mi pare che sia, vive in questa cascina e rimane incinta e sono già tante bocche da sfamare ed è un periodo in cui ci sono pochi soldi, cioè si mangia, si fa fatica a far mangiare tutti, nel momento in cui lei dice di essere incinta il marito è arrabbiato, se la prende eccetera eccetera, e a un certo punto la nonna, sono in questa stalla intorno al fuoco, se ne esce con questa frase che in dialetto bergamasco non so come sia, ma in italiano dice: ogni bambino si porta il suo fagottino, che è una bella immagine per raccontare quella cosa che alla fine, quando nasce un bimbo, in qualche modo lui si porta una specie di dote sua, una sua eredità che è più forte di quello che ci immaginiamo noi o delle nostre paure. Sempre parlando di cose che non so. 349-238-6666. Facendo parlare invece qualcuno che le cose le sa, perché le sta vivendo, voglio leggervi una mail che mi è arrivata poco prima della diretta, che è la lettera di una figlia che però ha anche paura di diventare mamma e che nell'incontro con una mamma che non ha paura di esserlo capisce delle cose. Ciao, mi chiamo Marianna, a maggio compio 33 anni. Sono figlia di due genitori che hanno sempre cercato di scegliere per me, per proteggermi, perché hanno sempre avuto paura degli sbagli, perché non hanno ancora capito che nel mondo fuori io sono da sola, che sono diversa da loro e che ogni giorno devo fare delle scelte. E a 33 anni non ne sono ancora capace, non sono allenata a farlo. Mi sento talmente figlia che non riesco nemmeno a immaginarmi madre, nonostante da ormai 6 anni sia follemente innamorata di Gianmarco e lui di me. Leggendo il vostro post di oggi mi sono sentita in dovere di scrivervi cosa mi è successo settimana scorsa. Un viaggio in treno di ritorno da una lunga giornata di lavoro, il mio nuovo bellissimo lavoro in un'agenzia di moda. Accanto a me, in treno, una collega. La sua scrivania è al piano di sopra, ci siamo incrociate un paio di volte, ma mai rivolte la parola. Ha la faccia buona, i capelli sempre raccolti in una di quelle code che da piccola chiamavo molle, la coda molle. «Ciao, dove scendi?» le chiedo. «Alla Bovisa, tu? Io proseguo, abito fuori Milano». È iniziata così la conversazione. Mi ha raccontato di come sia felice sua figlia Sara di avere a disposizione un giardino e una taverna in cui giocare e di poter andare a scuola e in piscina da sola, con la bici. «Certo, ci metto un'ora ad arrivare in agenzia», dice. «Ma sai, mi piace così tanto questo lavoro, mi ha fatto rinascere». Prima lavoravo vicino a casa, ma poi Andrea, mio figlio, è mancato. 2 mesi di malattia si sono portati via i suoi 11 anni. Io non sapevo proprio cosa dire, ma volevo dire qualcosa, volevo farle delle domande, tante, perché lei era lì vicino a me, viva, ancora capace di sorridere, e io non capivo come fosse possibile. Mia madre sarebbe morta, mio padre pure, quantomeno perché senza mia madre non ce l'avrebbe fatta. E invece non le faccio nessuna domanda e attacco così. «Sai, io ho il terrore di diventare madre. Io ho paura che mi possa accadere quello che è successo a te. Non so come farei. Io non riesco nemmeno a immaginare che cosa hai provato». Lei mi dice che non devo avere paura. Che lei, se tornasse indietro, lo rifarebbe ancora. Che Andrea lo vorrebbe ancora nella sua vita. Anche sapendo che a 12 anni la lascerebbe sola con Sara. «Ma perché?» chiedo io. «Perché è stato bellissimo», mi ha risposto lei. «Ciao, Marianna». La paura è quella di non poter garantire un futuro alla nostra per ora unica figlia, perché il lavoro stagionale per me, mentre per mia moglie è un posto sicuro ancora, ma la crisi e il terremoto che ha devastato Cavezzo, il mio paese, ci fa paura. Samuele. Questo pezzo è Fake Empire dei National. Tutte le canzoni che mandiamo, ve lo ricordo, le trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e lì trovate anche il link al nostro canale YouTube, su cui Paolino Corleone e Tiziano Bonini hanno linkato tutte le canzoni che abbiamo mandato in onda dal 5 di settembre fino ad oggi. 349-238-6666 mi spiegano, me lo spiega sia Aaron sia Gianni, che 27 più 5 riguardo ai due gemelli di cui parlavamo prima significa, e grazie perché questa roba ne ero totalmente all'oscuro, 27esima settimana più quinto giorno, quindi il quinto giorno della 27esima settimana, che immagino sia un po' presto. Il messaggio con cui chiudo oggi, che è un messaggio che credo, secondo me, Roberto e Flavia hanno mandato solo per Donatella, e dice: «Federico, nostro figlio 11 anni, anche lui è nato il 2 dicembre, come Giovanni. È bellissimo, con le ciglia lunghissime ed è affetto da grave disabilità psicomotoria. Diciamocelo, andrà tutto bene. Il papà e la mamma, Roberto e Flavia». Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Donatella. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Milena, vivo a Milano e la storia di lunedì è la mia. Parla di un'auto che è andata in mare. Questa è la mia storia e io sono qui.